Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ho scelto di avere i benefici fiscali per stare in Tunisia e quindi non pago più le tasse in Italia e le pago qua. Non c'è posto per un pensionato che prende 500 euro al mese. Ha deciso di trasferirsi in Portogallo, sedotta dalle esenzioni fiscali che il paese sta offrendo ai pensionati stranieri. Il regime fiscale per questo tipo di residenti è stato introdotto nel 2009, ma sono stati necessari 4 anni perché entrasse veramente a pieno regime. Mi chiamo Vittoria, ho 69 anni e mezzo e sono venuta qui a Gran Canaria dopo che sono andata in pensione. E ho deciso di venire qui dopo una vacanza che avevo fatto. Io pensavo che il fenomeno degli italiani pensionati con pensioni non eccelse, naturalmente, almeno sono quelli che questa mattina vogliamo identificare e analizzare, che vanno in paesi esteri a vivere felicemente il più possibile gli ultimi anni della loro vita, fosse quasi un fenomeno, non so, quelli da curiosità che si legge ogni tanto sui giornali e sulle rubriche. Ma quando giorni fa sono stato contattato da un mio ex collega, un pochino più grande di me, che è già in pensione, e mi ha proposto un piano che stanno seguendo molti miei colleghi più grandi, conosciuti, anche nomi importanti del giornalismo italiano. Mi ha detto: guarda, se vuoi comincia a pensarci, in fondo hai 61 anni, prima o poi verrà anche per te il momento della pensione, noi ci stiamo organizzando, c'è un avvocato a Lisbona che ti fa la pratica in poco tempo, prendiamo un appartamento in affitto, ci intestiamo le utenze, la pensione lorda viene immediatamente riversata nel giro di pochissimo tempo in una banca portoghese, danno un codice fiscale e si vive benissimo, la vita costa poco, ci prendiamo una bella casetta davanti al mare. Dico: sì, ma cosa facciamo? Cioè, beh, dobbiamo stare almeno 6 mesi in Portogallo, però si sta bene, sai, ormai ci sono tutti gli amici, c'è una comunità, tutta gente che ormai è grande rispetto a me, ha meno problemi di gestione dei figli perché i figli sono grandi, le mogli non so che fine ha fatto, magari sono felicemente anche loro sistemate a qualche altra parte, insomma si stanno spostando come progetto di vita dopo aver lavorato tutta la vita per andare a vivere a Lisbona. Fantastica città, senz'altro, figuriamoci, ma mi sembra un po' singolare, un po' strano che persone che hanno sempre lavorato, attente, hanno fatto in fondo il mio stesso mestiere, quindi per loro dovrebbe essere vitale comunque essere abbarbicati a una realtà quotidiana, almeno finché ancora hanno lucidità, no, vanno a vivere, a stare in riva al mare, a bersi il bicchierino di porto, a farsi la mangiata di pesce a 10 euro, insomma, hanno deciso di cambiare vita. Mi sono un po' documentato e ho visto che il fenomeno è diffusissimo, non soltanto a Lisbona, ma anche in Kenya, in Thailandia, nelle Canarie, Panama, insomma ci sono dei posti che noi abbiamo sempre giudicato come dei paradisi destinati alle vacanze, diventano la destinazione ultima per tanti pensionati, ma non i pensionati ricconi, i paperon de paperoni, pensionati che altrimenti noi vedremmo vestiti in maniera dimessa, passeggiare la mattina per le nostre città sin dalle prime ore, con le mani dietro la schiena a guardare i lavori nei cantieri o perlomeno, nella migliore delle ipotesi, nei centri anziani a giocare a bocce, a ballare il trescone o a farsi una partita di briscola. Invece stanno lì, vedi le foto, stanno di fronte al mare con il cocktail di frutta in mano, sotto l'ombrellino, e fanno una bella vita che mai avrebbero sognato di fare. Ma cosa sta accadendo? Altra cosa che mi domando: i paesi in cui vanno sono gli stessi paesi a cui arriviamo immigrati. Per paradosso, mi sono fatto un giro in internet, ci sono dei riferimenti ormai precisi in ogni paese per italiani proprio, c'è uno anche nelle Filippine. Voi pensate che un anziano italiano prende parte per le Filippine perché c'è una sorta di accordo per cui la sua pensione sarà usufruita al lordo, quindi pagherà pochissime tasse, farà una bella vita, mentre alle Filippine vengono delle giovani ragazze e ragazzi appositamente per occuparsi di anziani. Mi sembra ci sia qualcosa di singolare, che nello stesso paese manda immigrati giovani, nel nostro paese si prende immigrati vecchi nostri. Beh, di questo voglio tra un po' riuscire in qualche maniera a avere qualche risposta dalle persone che mi ascoltano e sicuramente saranno direttamente documentate e interessate su questo fenomeno. 800 24 00 24, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Ti dico che in Italia contavo le monetine alla fine del mese per andare a fare la spesa, perché non arrivavo mai con 1000 euro. Qui con 1000 euro vado a cena fuori 4-5 volte al mese. Nella mia vita io di pensione prendevo netto 1.100 euro al mese, vivendo da solo in Italia, pagando l'affitto, le bollette, mangiare, mantenere la macchina, non arrivavo a fine del mese. E quindi dovevo andare in banca a prendere i miei sudati risparmi dopo 41 anni di lavoro da camionista. Invece qui in Bulgaria i miei 1.100 euro diventano, perché la Bulgaria è in Europa dal 1 gennaio 2007, quindi qua si arriva con la carta d'identità normale italiana, e i miei 1.100 euro sono diventati di colpo 2.200 leva, perché qui non c'è l'euro ma leva, e il cambio un euro sono due leva. 800 24 00 24, mi sembra che il quadro sia completo. Siete a conoscenza di vostri amici, o voi stessa vi state attrezzando, o vi siete già attrezzati e siete qui a passare i sei mesi, ma di solito sono i sei mesi primaverili, perché si va a svernare nel paese in cui ci viene versata la pensione, stiamo bene, ci stiamo tutto l'inverno, e a primavera si riaffacciano come uccelli migratori, pensionati, si passano altri sei mesi possibili in Italia e poi si va dall'altra parte, a meno che qualcuno decida che sia un passaggio totale, finale. Ma da quello che mi sembra aver capito, perlomeno dai miei ex colleghi, che in realtà è una sorta di transumanza alternata, si va un po' lì, un po' qui, si va a passare 15 giorni, poi si torna in Italia, insomma è una sorta di luogo di vacanza in cui si ritrovano gli amici, si dicono le stesse cose. Questa mattina è uscito sulla Stampa di Torino un bel reportage di Niccolò Zancan, La nuova vita dei pensionati a Tenerife, lontano dalle tasse, dove appunto è andato a toccare con mano, a vedere questi italiani che stanno a Tenerife. Si vede un irreale paesaggio delle Canarie, dove in questo periodo in cui la gente ricomincia a lavorare, le persone stese sui lettini sotto l'ombrellino di paglia di fronte al mare, belli, spaparanzati, felici, senza problemi, sono tutte persone anziane. Niccolò Zancan, buongiorno. Buongiorno a voi. Ti stai preparando anche te alla pensione, di la verità? No, per il momento non ancora. Però ci stai. Lo sai, io sono più grande di te, ma lo sai che a me lo stanno proponendo gente che c'ha un po' più di anni di me, che già si è piazzata. Ecco, dimmi innanzitutto, ecco, tu sei andato a Tenerife. A Tenerife, in uno dei posti, uno dei tanti paradisi dei pensionati in cui vanno gli italiani. Descrivi quello che hai già scritto oggi sulla Stampa per capire un po' la media del il tipo di pensionato che oggi fa una vita che mai un lavoratore medio che ha una pensione minima sarebbe sognato di fare. Mi ha colpito perché tutto è organizzato pensando a questo tipo di persone. Per esempio, solo a Miami avevo visto queste, cioè io non l'ho vista, ma insomma me le ha raccontate, queste macchine elettriche per chi ha difficoltà di mobilità. Ecco, tutti questi paesi, villaggi sono pieni di macchine elettriche che vengono affittate a 20 euro al giorno. Ogni angolo c'è un osteopata, cure dentarie. Tutta l'economia di quell'isola è organizzata pensando al fatto che dovranno vivere lì molti pensionati. Quindi innanzitutto mi ha colpito l'indotto mirato di cui l'Italia si perde tutto, e mi stupisce perché insomma, se non ci abbiamo anche i defibrillatori dove servono, capito? Esatto. La gente muore per strada comunque. Lì è pensato per loro, ci sono due parti molto diverse. Il nord, diciamo, è più chic, più verde, diciamo più nord Europa, sud è proprio per chi cerca il caldo, e ci sono queste spiaggioni molto organizzate proprio per loro, e raccontano tutti più o meno questa storia, cioè una vita di rinunce in Italia che lì diventa una vita piena. Vanno in discoteca a ballare alla sera, girano col cane all'1 e mezza di notte senza paura, e si riappropriano così un po' di senso di speranza del futuro. Molti hanno dei sogni, ecco. La media del potere d'acquisto di queste persone qual è, per far capire che tipo di pensioni hanno, quanto hanno di budget? Dunque, alle Canarie succede questo: le pensioni minime sono completamente fuori, cioè non devi neanche fare la denuncia dei redditi per i primi anni, quindi 12.000 euro, se hai 1.000 euro lì godi di una situazione particolare, perché essendo considerato posto estremamente periferico, anche se poi ci vogliono 3 ore e 50 di Ryanair, quindi facilmente raggiungibile, ma essendo considerata estrema periferia, siamo, diciamo, fra l'Africa e il Sud America, ultimo lembo occidentale di Spagna, bene, lì non paghi l'IVA su nulla, quindi una cena super costa 11 euro, 12 euro, questa è la prima cosa che ti racconto. E la pensione, se l'INPS gliela versa direttamente in una banca delle Canarie? No, non è esattamente come quella cosa che raccontavi del in Portogallo. Portogallo è così, sì. Il Portogallo è totalmente, cioè l'assegno lordo viene preso interamente. No, lì è diverso, la tassazione è più bassa e soprattutto la spesa sulla vita che cambia. Cioè, tutti dicono di avere il 40% in più di potere d'acquisto. La benzina costa 80 centesimi. Che ne so, appunto, una cena 11 euro, non esistono i termosifoni, moltissimi ti raccontano, io solo nel risparmiare sul riscaldamento, ho trovato una signora che ha fondato un giornale, si chiama Leggo Tenerife, partita da una villetta sul lago di Garda, dove aveva molte spese e soprattutto aveva molta paura. Si mischiano spesso queste due cose, cioè l'idea di andare anche a cercare un tipo di vita più serena. Sì, dopo gli assalti alle ville, la paura, esatto, dei borseggi, diciamo qui almeno. Un attimo solo, Zancan, sì. Marcello, abbiamo Marcello al telefono, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di farmi intervenire in questa cosa, che magari posso dare un mio piccolo contributo. Sì, questo aspettiamo. Allora, praticamente io ho già molti conoscenti che ci stanno guardando in giro per il mondo perché sono stanchi di questa nazione, sono stanchi un po' di essere un po' vessati dal fisco, da altre situazioni o comunque dalla qualità di vita che viene proposta. Beh, questo lo dice anche chi va nei, sì, paradisi fiscali, esatto, è la stessa cosa, ma qui è un altro caso però. È un altro caso. Io parlo di persone, sono dei poveri signori che hanno lavorato, esatto, tutta la vita, hanno 1.000 euro di pensione, esatto, e qui non sanno che farne. Esatto, esattamente, molti stanno guardando per la Thailandia. Io sono tornato da poco con un mio carissimo amico dal Portogallo, noi abbiamo fatto un giro perché lui si vorrebbe trasferire là. E quindi abbiamo preso già dei contatti. Mi conferma, c'è questo, diciamo, c'è questa organizzazione fatta apposta per italiani che vogliono andare a Lisbona? Ma guardi, noi non l'abbiamo contattata perché abbiamo già delle informazioni nostre fondamentalmente e abbiamo contattato un avvocato sul posto per fare le pratiche. È il famoso avvocato che mi hanno detto anche a me, c'è un avvocato, no, che fa questo. C'è una serie di avvocati che si possono recuperare in ambasciato o al consolato. Quanto chiede l'avvocato per curiosità per fare le pratiche? Ma sui 500 euro un poco di più, ma dipende dalle situazioni. È vero, in pochi giorni si ha il codice fiscale? Si va direttamente presso un ufficio, te lo danno immediatamente, te lo danno. Bisogna prendere si dice dove si abita, si fa un contratto d'affitto. Bisogna prendere una casa in affitto comunque. Esattamente. Sì. Poi sì, si può prendere anche entro quattro persone, quindi. Sì, si possono prendere, gli affitti sono piuttosto bassi, gli stipendi sono bassi, costa tutto il 30% in meno, quello che diciamo la sussistenza normale. E però bisogna vivere 6 mesi all'anno, bisogna vivere in Portogallo. Sì. Teoricamente sì, no, ma la maggior parte... Perché teoricamente? Si può anche non viverci 6 mesi? No, semplicemente perché molte persone non hanno intenzione di ritornare. Ah, stanno talmente bene che tornano a fare, sì, in effetti. Che tornano a fare qua, giustamente. Tornano magari per la famiglia un attimo, ma poco, nulla. Molti stanno cercando di vendere anche case, io conosco 2 o 3 persone, vendiamo case, andiamo proprio via, basta, a posto. Cioè ci compra un palazzo con una casa che vende in Italia. No, non hanno... Là i prezzi sono piuttosto bassi, però le case non hanno la stessa qualità dell'Italia, nel senso qualitativamente non sono ben commentate, mancano di alcuni servizi. Qualitativamente la qualità delle nostre case è più alta, attenzione. Però non voglio neanche comprare, perché vogliono diventare cittadini del mondo dove stanno meglio. Però il Portogallo è stata trovata proprio, vedendolo anche personalmente, facendo questo giro, una qualità della vita. Ma lei quanti anni ha? Le posso fare una domanda, Marcello? Io ho una 50 anni, ancora non posso andare. Quindi ancora c'ha minimo, c'ha altri 10-15 anni, di 15 anni. Muovendo, ma giustamente bisogna essere preparati al futuro. Ma 15 anni cambia il mondo 10 volte in 15 anni. Io ho accompagnato questo mio amico, lui è già in pensione. Il problema maggiore di questo mio conoscente è che non si sa bene se posso andare essendo un dipendente, ex dipendente statale, in quanto le convenzioni, quanto pare, per gli statali non valgono quanto come i lavoratori privati. Sì, è un po' diversa. Comunque è interessante, lo ci ha detto. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Sì. Mi pare che chi mi ha preceduto ha già detto, io sono stato alle Canarie per cercare di passare di là con la mia pensione, ma è vietato da una legge, non so che legge, chi l'abbia fatta, di ex dipendenti INPDAP, cioè quelli che credo abbiano la pensione più alta mediamente chiaramente in Italia, non possono portare la pensione all'estero. Alle Canarie sicuramente no. In Portogallo mi dovrò informare, andrò anche in Portogallo a vedere. Beh, però lei ha preclusione, potrebbe andare anche, non so, in Romania, in Tunisia, in Kenya, Thailandia, Panama, oppure vuole stare vicino. Vedere. La mia paura è che sia vietato portarla comunque all'estero, mi devo informare. Ma su un pensionone d'oro, quanto prende di pensione? Io sono un pensionato ex d'oro, adesso con tutte le trattenute supero netti di pochi 3.000 euro al mese. Beh, figuriamoci, con 3.000 euro alle Canarie sarebbe benissimo, sarebbe da Dio. Infatti, io ho visto un appartamento a 80.000 euro, un bel appartamento di 50-60 metri quadrati. Ah, proprio da acquistare. Da acquistare, poi ci sono delle varie opzioni, se uno sta solo 6 mesi e mezzo, 7 mesi, gli altri 6 mesi lo dà in affitto e ci guadagna un bel po' di soldini oltretutto. Però deve tenersi sempre una base in Italia comunque, perché sennò... Okay. Quello sì, poi si paga il doppio, chiaramente del doppio. Solo una cosa, Daniele, ma voi non avete famiglia, cioè il problema no. Io ci andrei volentieri, ecco, per questo io ci andrei volentieri, ma poi ancora i figli è una coda lunga, soprattutto per me no. È lunghissima, quindi è un po' difficile pensare, dico, ma poi è loro chiaro. Chi ci pensa? Ma io ho 68 anni, mi sono appena sposato, ho un figlio di 40 anni, ah, quindi tranquillo. E quindi sì, può farsi la sua luna di miele. Allora ritorniamo con Nicolò, grazie, Nicolò Zancan. Ecco, abbiamo avuto due testimonianze, uno proprio prova ad andare alle Canarie, ma i ricconi perché non li vogliono? Ricconi, poi 3.000 euro di pensione, una buona pensione, non è che in Italia ci farebbe la vita da nababbo, ecco. Il riccone può fare abbastanza quello che vuole, il punto è che lì io ho incontrato una signora che si stava vendendo tutti i gioielli e quando è arrivato all'ultimo, cioè un anello di fidanzamento peraltro di un ex marito, pensa che tristezza, a cui voleva bene, ha detto no, questo mi sembra eccessivo, una signora che ha una pensione da 860 euro che lì farà rammendatrice con l'aiuto un po' di tutti, si torna anche un po' a cercare un ambiente più socievole per certi punti, sotto certi punti di vista, rapporti, amicizie, appunto queste cose, ritrovarsi. Ecco, non è soltanto l'aspetto economico. No, non è soltanto l'aspetto economico, proprio qualità della vita. Molti sono incontrato persone che andavano via per stare più sereni. Certamente la questione economica è la prima. Questa signora ha detto, questo anello è il mio punto di non ritorno, non ho voglia di andare al compro oro. Allora, fermiamoci solo un secondo, Nicolò, ti chiedo un attimo di pazienza, dobbiamo dare la linea alla borsa e poi riprendiamo. Melog, cronache meridiane. Stasera parliamo di pensioni, di pensionati, insomma è sempre più difficile arrivare a fine mese e in tanti, o almeno in molti, stanno dicendo addio all'Italia, prendono la pensione e vanno in un paese, magari un paese vicino all'Italia. Quello che noi abbiamo rilevato è che negli ultimi 12 anni 35.000 pensionati che si sono pensionati in Italia, dopo aver lavorato un'intera vita lavorativa in Italia, hanno deciso di andare via e questo fenomeno è in crescita, perché se pensa che normalmente stavamo su una media di 2.500 persone, noi abbiamo avuto 3.500 persone nel 2013 e 5.000 persone nel 2014. Questa era un'intervista di Sat 2000 a Giuseppe Conte, direttore centrale Convenzione Internazionale Comunitaria dell'INPS. Certo, l'INPS comincia a storcersi un po' per questa roba. Primo perché dice gli italiani che vanno fuori a spendersi la pensione non consumano in Italia, non gli va che poi ci sia questa sorta di privilegio che hanno di incassarsela lorda. Insomma, sembra quasi che non abbia diritto una persona che si è guadagnato e versato la pensione tutta la vita di andarsela a spendere dove piffero vuole. E questo sarà un problema, naturalmente, che fa tremare le persone che sono già in quel posto. Ma quello che mi fa ancora più pensare è che noi siamo infarciti di un sistema, tutto sommato, che fa sì che i veri destinatari di tutto l'advertising, della pubblicità, quelli che si pensa che consumino, sono proprio le persone anziane, che sono anche una grande fonte di sostentamento per le giovani famiglie, per i giovani senza lavoro e via dicendo. Io sono circondato di pubblicità, di pannoloni, di dispositivi per la diarrea, di adesivi per le dentiere, di pillole per la prostata. Ecco, tutto questo indotto dove andrà a finire se, come ci ha detto Nicolò Zancan, esistono i posti, stanno attrezzando materialmente, addirittura con le mobility car che si affittano, vanno con la macchinetta elettrica, quindi non rischiano. Pensate che quello che accade nelle nostre strade, presi di mira dagli autobus, dai motorini, non possono nemmeno camminare nelle rampe. Nicolò Zancan, ricordo che oggi ho pubblicato sulla stampa un bel reportage, La nuova vita dei pensionati a Tenerife, lontano dalle tasse. Prima di riprendere con lui il racconto di quello che accade a Tenerife, voglio sentire due ascoltatori. Francesca, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto buon anno, perché non ci siamo ancora sentiti. Ormai manco Befana, manco dire buona Befana. Sì, ha ragione. Comunque io ho 67 anni, non sono purtroppo pensionata perché non ho mai lavorato, con mio grande dispiacere, non lo sto dicendo per darmi delle arie, però volevo dire, non riesco a capire bene come la pensa lei su questo fenomeno, perché mi pare di avvertire un leggero così tono di condiscendenza o di, non so, come se queste persone fossero un po' mentecatti, non so che mentecatto è chi rimane, onestamente mi sembra che hanno fatto una scelta intelligente, ecco. E si sono trovati strumenti anche per fare una scelta, invece che stare lì a piangersi addosso hanno visto che è possibile. Se una persona che era al lumicino, come ci ha detto Zancan, con 800 euro di pensione, si è venduta fino all'ultimo anello, ha detto no, basta, e adesso sì, fa una vita più che decente, tutt'altro che mentecatti, mi pare. Ecco, appunto, allora ho sbagliato, ho interpretato male la sua... Io normalmente, il mio punto di vista è la curiosità, onestamente, sì, sono stato lambito dal problema, perché qualcuno me l'ha proposto a me, e ho detto, oh, guarda, allora non è più una cosa che accade agli altri, e quindi mi sono cominciato a documentare. Quindi lei cosa voleva dire alla fine? Ci va o non ci va lei? No, tanto non ha mai... No, io non ci vado perché... No, in questo momento non ci vado perché ho i nipotini ancora piccoli da seguire. Ma chi la mantiene a lei? Scusi il termine, visto che non ha mai fatto... No, io ho delle proprietà... Ah, quindi lei è una possidente, non ha questo problema? Sì, possidente, madonna, che parola grossa, guardi che non pagano mai. Vabbè, comunque sia, può permettersi di vivere di rendita, signora, senza pensione, quindi mi sembra che è un altro problema. Un giorno parleremo anche del suo problema, probabilmente. Fati, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Fati, sì, buongiorno. Sono tunisino, sono ingegnere che da 30 anni che vivo qui a Milano. Quindi conosce anche, diciamo, la transumanza verso la Tunisia dei pensionati italiani. Questa cosa qua io la conosco da circa 15 anni, cioè dal 2000. Io viaggio 2, 3, 4 volte all'anno in Tunisia, minimo trovo 15 persone italiane che fanno 3 mesi lì e 3 mesi qua. Ecco, come che lei sappia, come organizzati i posti, diciamo, di accoglienza? Come ci ha raccontato Nicolò Zancan che accade a Tenerife? Cioè c'è proprio un indotto che cresce attorno ai pensionati per farli vivere al meglio? No, ma è tutto un problema economico. Loro sono andati lì, prendono 1.000-1.500 euro. Magari in 2-3 mila euro lì fanno i principi, cioè in Tunisia. Io conosco una zona della Tunisia, da Tunisi proprio, circa 15 chilometri, che tutte le case sono occupate da italiani, tutte le case. Cioè, non so se lei conosce Tunisi, conosce? No, non conosco Tunisi. Ecco, tutto la costa lì, Sidi Bou Said, e sono tutte case occupate da italiani, o in affitto oppure anche... Ma vivono come in vacanza tutto l'anno praticamente? Sì. Ma non fanno furbi, cioè vanno 2-3 mesi lì e tornano qua in Italia 15 giorni per non far scadere quella... E come vedono, diciamo, i locali? È una fonte, diciamo, di indotto, di reddito, di guadagno per le persone? Ma anche qui c'è un problema che fanno alzare i prezzi. Sì, al ristorante. Ah, quindi sono case troppo ricchi rispetto all'economia locale. Certo, io mio cognato è un ingegnere che lavora lì in Tunisia. Io sono ormai in Italia, anch'io mi permetto di fare quello che... Però lui non può andare al ristorante come un operaio che prende il mio... Diciamo che i tunisini hanno alzato i prezzi, il tenore di vita è entrato più alto, sono gli italiani che possono spendere. Interessante questo. Nicolò Zancan, torniamo al tuo punto di vista, che vedi, stiamo toccando un mondo. Il signore ingegnere tunisino che vive in Italia dice sì, però ci fanno alzare i prezzi. Accade qualcosa del genere anche a Tenerife? C'è questo rischio? Assolutamente sì, infatti quelli che sono arrivati 3 anni fa si lamentano perché sta succedendo qualcosa di particolare. Dunque, innanzitutto diciamo, a Tenerife sono 19.000 gli ufficialmente registrati, gli italiani che vivono lì per sempre, almeno così dovrebbero fare, avendo chiesto la residenza. Dopodiché ce ne sono circa 60.000 come cifra ufficiosa riconosciuta da varie parti. Adesso cominciano ad essere tanti, non è? 60.000 è una città. Infatti la cosa, rispondendo a quella signora di prima, al limite può venire una sorta di malinconia, perché tu vai in dei posti anche molto belli dove vedi solo persone anziane. E questo forse magari è un problema mio di prospettiva, cioè vedere un posto come Los Cristianos, che è un posto del sud, molto bello, la spiaggia, arrivano i transatlantici, ecco, questo perlomeno garantisce un po' di movimento. Cioè diventa uno spizio di lusso, esteso. Gigantesco, adesso non vorrei mancare di rispetto a nessuno, però insomma il tema è che sono belli. Io già ho un piede nella fossa, quindi posso dirlo. Esatto, voglio dire, i posti più mischiati, dove le persone prendono da più punti di vista, no? La vita. Cioè, diciamo, hanno monopolizzato delle aree che erano aperte, diciamo, alla contaminazione fra persone, fra fasce d'età, e sono diventate, in realtà sì, il termine è quello, è un ospizio allargato come un albergo. È quello, perché c'ha tutti i presidi. Molto bello, con una gran qualità della vita, un po' questo è quello che sta succedendo. Allora, innanzitutto ci sono quelli del Nord Europa che hanno pensioni più alte e questo crea il primo problema. Cioè ci sono anche tedeschi, ci sono di tutti. Ci sono inglesi, tedeschi, in particolare inglesi, i più presenti sono gli inglesi. Dopodiché gli italiani sono molto forti, in questo paese Los Cristianos ce ne sono 5.000 di pensionati italiani, non solo cittadina, non so come chiamarla, non è molto più grande. Ecco, quello che sta succedendo è che queste persone, forse perché raccontano la loro esperienza, forse perché hanno un senso anche giustamente di rivincita, di rivalsa, una seconda vita, trasmettono a casa questo sentimento, quelli che sono rimasti, e stanno iniziando a chiedere di poter partire anche altri tipi di persone. Ecco, questo è la moltiplicazione degli esuli. Non sono più solo i pensionati in difficoltà, ma iniziano ad arrivare anche ragazzi che sono sposati da poco e non hanno lavoro e cercano di trovare magari nei ristoranti italiani. Iniziano ad arrivare anche, purtroppo, dicevo una signora, diciamo così, piccoli truffatori. Quelli che se ne approfittano, certo. Che se ne approfittano, per esempio sull'affitto delle case, sempre gli italiani. C'è anche una piccola little Italy. Sì, ma io immagino che i truffatori che vivono sulle truffe agli anziani, dicendo che sono amici del nipote, possono fare un trasferimento in massa lì, perché hanno persone che hanno tanto tempo libero, una buona disponibilità relativa economica, e in fondo alla fine si annoieranno tanto. Tu sei stato al Banana? L'ho visto da fuori perché era chiuso. È una discoteca per anziani, che sembra un paradosso. Una discoteca per anziani, due o tre sere a settimana si riempie, moltissime sono italiani, quasi la maggior parte. E così anche quello è un fatto, cioè molti sognano di avere questa possibilità di rinnamorarsi o di... Ti faccio una domanda ultima per non rinnegare l'accusa che mi fanno sempre di essere malizioso. Al di là dei presidi per la terza età, esiste anche un indotto un pochino più godereccio, tipo massaggio romantico per anziani, cose del genere? Perché alla fine anche questo vorrei sapere. Ho il sospetto di sì. Perché figurati, l'Italia è piena di saloni di massaggio cinesi frequentati da pensionati, vuoi che lì non si stabilisca qualcosa del genere? No, a me farà bene anche a loro la salute, ma per non dire che è soltanto un grande ospedale, diciamo, fanno una vita divertente. Anche no, ma a parte che ci sono anche massaggi, diciamo, di tutti gli altri tipi, diciamo, più sul lato della salute, e li vedi, però sì, ho sospetto di sì, è proprio questo che mi domando, come mai... Comunque tutti parlano del fatto che ormai il mondo è dai sessantenni la vita si allunga, e mi domando per esempio in Sicilia perché nessuno si preoccupa di questa possibilità imprenditoriale. Comunque anche lì c'è un clima tutto sommato. Sì, ma Sicilia, abbiamo dei posti fantastici, perché nessuno si organizza questo. Questa è una domanda che lasceremo sospesa, perché evidentemente poi il regime fiscale rimane lo stesso in Italia, e alla fine è più difficile dare a loro quell'idea che noi possiamo avere un potere d'acquisto illimitato rispetto a, con questi 1.000 euro questi sentono dei signori. In Italia con 1.000 euro poco fai. Ecco, piccolo esempio, sì, questo magnifico, un signore che ha fatto tutta la vita l'insegnante alla Dispoli, insegnante di matematica al liceo, gabbissima, di 82 anni, in piena forma, 1.300 euro la sua pensione, vive con la moglie, è felice, ha affittato una casa da 500 euro in un condominio con tre piscine, di quelli molto controllati, molto belli, e dice: col resto facciamo una magnifica vita, io e mia moglie qua. Come se stesse a Dubai, capito? Questo è il fatto dal suo punto di vista. Fermiamoci solo un istante, Nicolò, tra poco. Melog, cronache meridiane. È stata maturata durante questa pausa una epocale decisione. io, Fabrizio Intonti e Valerio Rocchetti partiremo per le Canarie. Voi di che vivete? Ma a parte ancora non ce l'ho la pensione, però io posso fare una radio per anziani. Ma 5.000 che ti sento tutti i giorni, ti faccio raccontare le storie. Intonti, che è un fotografo eccelso, fa i ritratti per anziani che sembrino giovani. Rocchetti smette a mettere musica al banana, tutte le sere al banana è tutta festa. Dice, ma che fate poi? Vi mettete anche voi lì ancora un po' presto per catetere, prostate, cose del genere? C'è sempre, già vi sanno segnali da tutta la redazione che voglio venire. Capito? Però abbiamo un collega che è appassionato di pesca, si porta la canna da pesca, lì c'è da pescare, c'è da far tutto. Ma perché non dovremmo farlo? Datemi una ragione per non farlo. Cioè, sì, ma tu lasci l'Italia, il tuo paese, sei attanagliato con la realtà. Sì, ma quale realtà? Ogni giorno mi sembra che il mondo mi passi davanti sempre in maniera più indifferente. Beh, 800 24 00 24, Massimiliano, ci riporti coi piedi per terra. Sì, buongiorno. Niente, chiamavo perché ho avuto un'esperienza, o meglio, conoscevo una persona, sono andato a trovare appunto uno di questi anziani in una di queste isole, tra l'altro in una zona, diciamo, meno italianizzata. Quello che raccontava il signore precedente è vero, nel senso che comunque ci sono queste parti di isola appunto predisposte, insomma, soprattutto per i tedeschi, gli inglesi, proprio sono ben strutturate, hanno quasi un aspetto coloniale. Ma al di là di questo, volevo solo riportare l'esperienza appunto con questo contatto diretto di questa persona che mi diceva: sì, è bello, si sta bene, cioè comunque è un altro modo di vivere, c'è caldo, tutte quelle cose belle che si dicono e che si sentono. L'unica considerazione che mi ha fatto un po' pensare è stata questa, la riporto come unica cosa senza divagare, è che mi ha detto: sì, è bello, però sai, magari se volessi fare una sera, che ne so, a teatro, in un bel teatro, come magari, non dico di andare alla Scala, ma anche un bel teatro di una città, una normalissima città italiana, qui non lo puoi fare perché non c'è, o se c'è, insomma, non sì, ma non quante volte un pensionato italiano con 1.000 euro al mese va a teatro nella sua vita di pensionato? No, quello quindi... non è vero. Io vedo qui anche da noi nella nostra città di provincia ci sono dei bellissimi teatri dove gli anziani o comunque tutte, ma in realtà poi non è un sì, ma meglio che andare anziani al teatro della filodrammatica di Canicattì, preferisco stare a guardarmi il mare alle Canarie, mi accendo YouTube con un maxi schermo, guardo il Metropolitan di New York, che mi importa? Cioè, io la ragiono così, forse sbaglierò. Comunque sui teatri anche non centralissimi, ripeto, come la Scala, comunque c'è una circuitazione di tutto rispetto. Allora, chi gli manca al teatro prenderà una volta l'anno un biglietto e se ne va alla Scala a vedere la Scala, ma mi sembra sulla bilancia la serata a teatro rispetto che andare al banana tutte le sere e avere la macchinetta elettrica per muoversi e starsene spaparanzati in riva al mare non regge. Bruno, buongiorno. Buongiorno, io ho ascoltato quello che ha detto il signore prima di quest'ultimo e sono un pensionato d'oro, prendo grosso modo netto 3.200 euro, ho lavorato per 36 anni e sto cercando seriamente di andare via in Portogallo. Come il signore che ha detto prima, la stessa situazione. Ecco, ma la ragione forse è un po' diversa e quindi pur non volendo fare il pianto del povero ricco, è perché in 16 anni che io sono in pensione ne ho veramente, mi scusi, le scatole piene di questo quotidiano assalto alla mia pensione d'oro, ai miei privilegi, al fatto che ci sono quelli che prendono 1.000 euro al mese, sì, eccetera. Sì. Poi non è che fa la vita da paperon de paperoni, oggi con 3.000 euro se c'è una famiglia, comunque degli addentellati di famiglia a cui pensare, fa una vita più che dignitosa, ma non è certo fa una vita da nababbo, diciamoci la verità. No, sbaglio. Cinque mestieri diversi. Mi sono laureato una seconda volta perché la prima laurea non serviva a niente. Sì, ma diciamo lei giustamente, se l'è ben guadagnati tutta la vita, non deve dire grazie a nessuno. Quindi dice, probabilmente per me è la prospettiva per fare una vita un po' più decente, piuttosto qui rincorso dal fisco e che ti guardano, come dire, privilegiato. Mi sembra chiaro. Abbiamo Ulderico, buongiorno. Buongiorno. Volevo dirvi una cosa soltanto. Ho sentito le Canarie, la Tunisia. Io vivo in Tunisia, mi sono trasferito in Tunisia, dove a Tunisi vivo abbastanza bene, ma c'è un particolare che nessuno ricorda mai, che contestualmente all'iscrizione all'AIRE, cioè l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, il pensionato perde automaticamente il servizio sanitario nazionale, l'assistenza, cioè perde tutta una serie di servizi di cui gode in Italia, quindi l'Italia non paga più per questi servizi. Non solo, ma la prima casa, la sua casa d'abitazione, diventa subito seconda casa sulla quale paga l'IMU, tutte le tasse previste con tutti i... Sì, però Federico, scusi, è probabile che il pensionato a 1000 euro non ha nemmeno una sua prima casa. Non lo so se ce l'ha la prima casa, ma molti hanno anche la prima casa perché sono magari l'hanno ereditata. Sì, ma magari uno l'ha in testa ai figli, la dà ai figli Ecco, la deve dare, se deve disfare, ma comunque perde tutto quanto. Ma allora lei, scusi, lei conviene però starci, se no non ci starebbe in Tunisia. Certo che mi conviene. No. Nonostante questo, sì, diciamo, da quello che ho capito... No, voglio dire che non è tutto oro quello che brilla. È chiaro, nessuno ti regala niente. Scusi, quando il dottor Conti viene a dirci ogni volta ma gli italiani vanno via, non spendono qui, non spendono qua, il dottor Conti si è mai interrogato del perché gli italiani vanno via e del perché l'Italia non attrae ricchi pensionati del nord Europa? Su questo non se lo chiedono mai. Cioè, il direttore centrale dell'INPS che abbiamo sentito prima, che dice sì, ma non spendono l'Italia. Sì, ma perché i tedeschi non... Beh, guardi, si sono comprati interi paesi in Toscana, in Umbria, adesso stanno comprandosi l'Abruzzo terremotato perché è a prezzi stracciati, si stanno organizzando, sono australiani in Umbria che hanno interi borghi, vengono ogni tanto, però diciamo è un turismo differente, si comprano le case, si ristrutturano, vengono a stare dei periodi, hanno molti più soldi, si vivono chiusi nelle loro case, fanno i loro giretti e se ne vanno, non è che chiedono l'indotto con gli adesivi per dentiera sotto casa o le macchinette elettriche, è gente che ha un potere d'acquisto diverso. È vero, noi non riusciamo a essere il paradiso finale per i pensionati ricchissimi di tutto il mondo, riescono ad andare in California, si sta molto meglio. Katia, buongiorno. Katia, buongiorno. Buongiorno. Sì. Tengo la radio, eccomi. Ecco, sì, perché buongiorno siamo detti quattro volte. Adesso, avanti. Ha ragione. Niente, io raccontavo prima che i miei genitori settantenni, in pensione da qualche anno, trascorrono il loro inverno nel sud Italia, in Sicilia, per la precisione. E comunque sono felicissimi di questa loro scelta perché il clima è decisamente migliore rispetto a quello che c'è in Italia. Però i vantaggi economici evidentemente sono differenti, perché sennò tanta gente se andrebbe in Sicilia invece che andarsene in Tunisia o andarsene alle Canarie. Alla prossima.